9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 17, buona sfida al chi crede che naturalmente il venerdì 17 sia un pessimo accostamento. Noi naturalmente non lo crediamo, non siamo superstiziosi, noi siamo di quelli che pensano che ciascuno, al di là del suo corredo genetico e al di là del suo imprinting, cioè di ciò che l'ambiente circostante, gli usi, costumi, l'assetto istituzionale, quella che il grande economista Douglas North ci ha insegnato chiamarsi la cosiddetta path dependence, cioè il fatto che si dipende più o meno dal solco in cui ci troviamo, ma al di là di tutto questo noi siamo, plurale di maestà, no, chi la pensa come me e io ultimo tra loro, siamo convinti che esista una elevatissima possibilità, al di là di tutto questo, al di là dell'influenza e di ciò che siamo alla nascita, per scegliere il proprio destino, per crederci, per costruirlo, per cambiare le regole e i cattivi incentivi se intorno a noi ci spingono alle peggiori pratiche invece che alle migliori, a capire come va il mondo e di lì trarre ispirazione, esempio e tentare di cambiare quello che nel nostro paese, per venire al tema della puntata di oggi, e dovrebbe indurci a qualche riflessioncella se tutto sommato crescevamo così poco prima della crisi e come confermano i dati illustrati ieri dal centro studi di Confindustria, il rischio molto concreto, che è già diventato più di un rischio e la realtà, è che anche dalla crisi usciremo crescendo meno di altri, un terzo della Germania per capirci. Ecco, allora di fronte a questo la riflessione diventa come e che cosa cambiare, e allora oggi abbiamo scelto due rappresentazioni, due fotografie un pochino paradigmatiche. Come sempre nella scelta di casi paradigmatici c'è un paradosso, e quindi io mi rassegno al fatto che molti di voi diranno è troppo comodo dire che l'alternativo è l'una e l'altra, c'è il grigio, il di mezzo e i tanti sopra e sotto, d'accordo, però bisogna per scegliere avere dei modelli, degli esempi. E allora le due fotografie dell'Italia che servono per rappresentare che tipo di evoluzione, che tipo di sviluppo o di mancato sviluppo abbiamo, sono nella nostra testa. Da una parte le scelte della nuova Fiat illustrate ieri all'atto della scissione tra Fiat Auto e Fiat Industriale, con la prima che rapidamente imbocca la strada del conferimento in Chrysler in maniera tale che lo Stato americano esca al più presto possibile, la Fiat arrivi al 25%, con la sfida di arrivare entro pochissimi anni, entro 3 anni, al 51%, e con, come ha detto ieri Sergio Marchionne, ribadito, l'aveva già detto, e John Elkann, qui la sfida è diventata quella di adottare regole di competitività anche negli stabilimenti italiani in onda e coerenti a quelli del resto del mondo, perché non è affatto detto che la Fiat, per il solo fatto di essere stata italiana per più di un secolo, debba rimanere italiana, come hanno pensato spesso molti, ad onta della produttività, perché una volta che si entra in una prospettiva globale, si è solidamente incardinati con la prospettiva di essere maggioritaria negli Stati Uniti, si guarda a dove mettere gli stabilimenti, laddove essi sono in condizione di guadagnare, come hanno guadagnato in tutti questi anni in Brasile e in Polonia, che sono quelli che hanno consentito di tenere aperti gli stabilimenti italiani. E questa è la prima fotografia, con tutto il seguito di confronti, polemiche, nuove regole, il Federmeccanica e Confindustria che hanno aperto il nuovo tavolo con tutti i sindacati tranne la CGIL e la FIOM per stabilire le nuove deroghe contrattuali consentite dall'accordo interfederale del febbraio 2009 e consentito dal contratto dei metalmeccanici firmato nel prosieguo del 2009, esattamente un anno fa, 10 mesi fa. Seconda fotografia, perché non c'è solo questo in Italia, e infatti Marchionne fa molto discutere. Ieri Epifani ha detto è un prezzo troppo alto quello che si chiede di pagare ai lavoratori di Melfi, troppo alto, è un prezzo, ma veramente io avevo capito che erano denari in più, era una bella fetta di salario aggiuntivo decontribuito perché tassato solo al 10%, è un prezzo prendere denaro in più per lavoro diversamente organizzato, non lo so, vedremo. Ma la seconda fotografia è invece, dal mio punto di vista, altrettanto destinata a far discutere, mi auguro, ma vedo che invece non è così, perché sono stati solo due giornali a occuparsene. Di che cosa stiamo parlando? Della Sicilia. La Sicilia che ha un problema, tra i tanti, ma è un problema di cui ci siamo già occupati in due puntate nell'ultimo anno, quello dei precari, perché oltre ad avere il record del numero di dipendenti della regione Sicilia, non lo dico per polemica, è un fatto, non è graduatorie comparate delle regioni italiane, e cioè ad avere pianta organica a tempo indeterminato 17.000 dipendenti e più di 12.000 pensionati pagati, molte poi migliaia di precari a rotazione nei diversi incarichi con i contratti a tempo determinato. E quindi di fronte al problema dei precari, ve ne ricordate, in occasione della manovra biennale si era proposto il problema come ai tempi della finanziaria, ora siamo arrivati a una regolarizzazione, diciamo così, perché la Sicilia ha bandito un concorso il cui obiettivo evidente, visto che vi possono partecipare solo i precari della regione, è quello di regolarizzare 4.912 di questi precari e tramutarli quindi in nuovi assunti a tempo indeterminato. La questione è che questo concorso, oltre a essere limitato nel numero e quindi evidentemente contrattato con i sindacati a tavolino per risolvere questo problema, ha, a seconda della fascia dei dipendenti che è volto ad assumere, cioè una categoria A e una categoria B, mi è venuto a dire B, adesso capite perché, ha le seguenti prove che valgono la pena di essere lette e ben meditate, per così dire. Categoria A della prova per questo concorso Regione Sicilia. Prima prova, fare una fotocopia, ove possibile, fronte e retro. Fare una fotocopia, ove possibile, fronte e retro. Seconda prova, saper fare un fax. Terza prova, essere capaci di predisporre una busta completa di indirizzo. Attenzione, viene il difficile timbro del mittente. Prova numero 4. Saper apporre la data su un documento utilizzando questo strepitoso strumento delle nuove frontiere della tecnologia digitale che è il timbro a datario. Poi, prova 5. Qui viene il difficile, perché a questo punto, dopo le prove di applicazione intellettuale, si esercitano le altre risorse di cui ci ha dotato il creatore o madre natura, a seconda che siate creazionisti o evoluzionisti. La prova è essere in grado di aprire un faldone, aprire un fascicolo, richiudere il faldone. Non è indicato il tempo in cui si chiede di farlo, ma la commissione poi valuterà in sintesi il meglio di questi tre complicatissimi atti di coordinamento fisio-psicomotorio. Infine, prova numero 6, simulare la consegna manuale di un documento. Allora, invece, le prove della categoria B, prima prova, saper fare fax anche composti da più pagine e indirizzati a numeri internazionali. Ecco, prova 2, essere capaci di protocollare lettere in entrata e in uscita mediante protocollo cartaceo o, incredibile, informatico. Prova 3, predisporre un modulo per raccomandata, quella postale. Cosa state pensando? La raccomandata postale. 4, la quarta prova della categoria B, sapere archiviare documenti mediante l'uso di strumenti informatici. Questa, devo dire la verità, è la prima cosa che mi fa pensare a qualcosa, perché se dovesse essere intesa tecniche generali di fondamentali sulle categorie dell'archiviazione pubblica, sarebbe una materia molto complessa, perché io da ragazzino, per sbarcare lunario, aiutavo componenti della famiglia a riordinare archivi di enti pubblici. Non è così semplice, ma invece in questo caso saper archiviare documenti mediante l'uso di strumenti informatici, come si legge nel bando, significa semplicemente nel computer mettere il protocollo. Ecco, vorrei che vi fosse chiaro. Prova numero 5, saper archiviare documenti mediante compilazione di uno schedario, cioè con le schedine che ti girano sulla spirale di metallo sul tavolo. 6, esame di videoscrittura. Ecco, queste sono le 12 prove, 6 prove della categoria A, 6 prove della categoria B, per assumere altre 5.000 persone a tempo indeterminato a spese del contribuente in una regione che, tranne la Valle d'Aosta, detiene già il record per quanto ai suoi contribuenti costa ciascun il totale del personale della regione, perché la graduatoria è che costa costa a ogni contribuente 300,47 euro, il personale della regione di ogni abitante della Sicilia. Faccio notare che al cittadino lombardo il personale della regione costa 20 euro, e la differenza quindi è tra 20 euro e 347 euro. Si dirà però, e certo, le famiglie, i 5.000 precari, come fare? In Sicilia la disoccupazione è già al 13%, se non ci pensa lo Stato. D'accordo, la sfida è tra pensare che esista una possibilità di vincere la legge di gravità. Noi continuiamo a pagare la sanzione di tutti, solo posti allo Stato, non esiste la competizione, la globalità, il costo comparato, la produttività, non esiste il margine asintotico al prelievo, non esiste poi quello che, numeri di Confindustria di ieri, è la reazione del più di chi può, cioè aumentare a quel punto il nero e l'evasione, perché in più quando c'è la crisi lo Stato non abbassa le pretese e il fatturato diminuisce e i tuoi clienti ti pagano meno, chi può lo fa. Devo dire che io mi scandalizzo molto, no, non mi scandalizzo per niente, e dico che anche oltre a capirlo mi sembra che ci sia anche una soglia oltre la quale diventa poi discutibile quanto volete, ma insomma non proprio un oltraggio, perché l'oltraggio è ciò che si subisce e oltretutto si aggrava se i 5.000 della Sicilia arrivano. Poi c'è l'altra fotografia. Allora, io ho detto abbastanza e troppo come al solito. In queste due strade ci sarà la maniera di ragionarci sopra, ecco, per dire è possibile imboccare la prima o siamo per forza rassegnati al fatto che la prima sia una provocazione alla nostra portata e allora a quel punto la soluzione è la seconda? Non lo so. Sentiamo cosa dicono i nostri ospiti, ma soprattutto vi prego, telefonate senza cadere nella trappola di pensare che questa sia un'offesa ai siciliani. I siciliani sono incolpevoli di questo. Lì c'è la politica, un modello di intermediazione del reddito che viene avanti da decenni, ci sono responsabilità complessive di classi dirigenti, io non ce l'ho con i siciliani, dico però che fossi siciliano sarei imbufalito e probabilmente non sarei più lì, avrei votato con i piedi oltre che con le mani, ma detto questo di soluzioni ce ne sono diverse probabilmente. Allora, i nostri tre ospiti sono innanzitutto Guido Gentili, giornalista, editorialista del Sole 24 Ore, buongiorno Gentili. Buongiorno. Domenico De Masi, docente, sociologo del lavoro alla Sapienza, un meridionale di quelli abituati, diciamo, a liquidare con ragionamenti taglienti ma profondi chi ce l'ha con il Sud, ma non per questo non teorico di un modello di sviluppo del Sud. Buongiorno. Buongiorno a lei. Giorgio Cremaschi, sono molto lieto che abbia accettato di venire qua, ho avuto qualche problemino io recentemente con la fiomma, ma Giorgio Cremaschi, ci conosciamo da anni, sa che se sbaglio sbaglio in proprio e se sbaglio sbaglio molto di solito, quindi io inizierei proprio con Giorgio Cremaschi, presidente del Comitato Centrale della Fiomma, perché in sintesi vorrei da una parte una reazione alle cose della Fiat, che sono quelle note, ma insomma se ieri ha notato qualche cosa che può migliorare o, come immagino, aggravare il suo giudizio, però voglio sapere anche come la pensa su questa vicenda siciliana e qual è la possibilità, per come la vede lui, la Fiomma, eccetera, eccetera, di metterci in mezzo tra queste due fotografie. Cremaschi. Sì, tanto buongiorno. Voglio però dire che, proprio perché ci conosciamo da un po' di tempo, che io non sono d'accordo non con la descrizione del fatto, che chiaramente fa parte di una cosa che non va bene, ma diciamo del fatto della contrapposizione. Cioè io penso che siamo di fronte a due facce della stessa medaglia. Guardi, in questi giorni in Sicilia stanno chiudendo tutte le principali fabbriche. La Fiat chiude lo stabilimento di Termini Merese, la Fincantieri di Palermo a fine anno è ferma, i cantieri navali non hanno più commesse, l'Italtel, l'altro grande stabilimento tecnologico, è sostanzialmente sull'orlo della chiusura, non parlo poi di tante piccole aziende. Ora, questo non è che giustifica, questa è l'altra faccia della medaglia, cioè noi siamo di fronte a un paese che sta degenerando e dove in realtà l'uniche soluzioni che vengono date sono soluzioni che sviliscono la qualità e la dignità del lavoro. Da un lato nelle zone di maggiore disoccupazione e dove affluiscono senza controllo i soldi pubblici, ci sono i padroni pubblici del lavoro. È evidente, perché queste operazioni, come lei sa perfettamente, poi producono voti, risultati, infatti le classi dirigenti, in particolare nel Mezzogiorno, questo è un dato di fatto, non cambiano sostanzialmente mai, perché alimentano se stesse con il lavoro clientelare fatto con i soldi pubblici, dall'altro quando viene offerto un lavoro è un lavoro che, a mio parere naturalmente, è un lavoro debole, precario, privo di reali prospettive e anche questo offensivo della dignità delle persone. Questo è, diciamo, secondo me, quindi per me tra Marchionne, per essere Marchionne non è un'alternativa a quelle cose siciliane che lei adesso ha descritto, a quel tipo di lavoro chiaramente clientelare descritto, ma è secondo me semplicemente l'altra faccia della medaglia della crisi italiana. Per quanto riguarda, se vuole, quello che penso della Fiat, io sì, penso che quello che è stato detto ieri è un'aggravante, perché io ho sentito, tra l'altro, questo mi ricollego, ho sentito un linguaggio, no, almeno quello che ho visto in televisione di Marchionne, che mi pare davvero da vecchio barone agrario. Io, alla domanda timida, mi pare che qualcuno gli ha fatto, non so se era una domanda o se era, come si dice, una risposta a domande che pensava gli venissero fatte, senza che gli siano state fatte. Marchionne ha detto: ma che programmi, ma che piattaforma, eccetera, prima legge e ordine, poi vi dico qualcosa. Ecco, io credo che un industriale moderno non si possa comportare così. Penso che lui stia comportandosi in Italia con atteggiamenti da colonia ottocentesco, da coloniali ottocentesco. E tra l'altro, anche se la stampa economica, mi dispiace, come si dice, dover un po' criticare la categoria, in generale, con qualche lodevole eccezione, se vuole poi le faccio anche i nomi, non gli fa le domande giuste, vedo che gli analisti, quelli che devono metterci sui soldi, invece le domande se le fanno e se le pongono, perché ieri, mentre c'è stata questa grande festa Fiat, il titolo è sprofondato. No, però mi dica anche chi salva, no, diciamolo, perché poi è bello, è così. Allora, salvo subito Massimo Mucchetti, ad esempio, del Corriere della Sera, che pur dichiarando assolutamente, cioè sicuramente non è vicino alle posizioni della FIOM, però quando scrivi sui articoli economici le domande su che cosa succederà in Fiat se le pone, e la sostanza è questa della Fiat: la Fiat sta perdendo drammaticamente quote di mercato in Europa, cioè nel senso non è competitiva in Europa, e se vi permette perde quote di mercato nei confronti delle aziende che hanno condizioni di salario e condizioni di orario infinitamente migliore, non solo dei lavoratori di Pomigliano, di quello che si vuol fare, ma anche dei lavoratori di Mirafiori. Quindi perde quote di mercato soprattutto nei confronti della Volkswagen e della Renault, e quindi sta in questo momento riducendo la sua base produttiva in Europa, non perché i lavoratori non lavorano, ma perché non ha prodotti di qualità europea da vendere. In più, la Fiat in questi ultimi 2 o 3 anni, e con lo spin-off soprattutto, ha cambiato, cioè con la separazione dell'auto dal resto, ha cambiato la sua natura societaria. Ora lei so che lei è molto attento a queste cose, quindi sa che nessuno regala niente. Io non credo, per essere chiari, che nella fabbrica auto, quella che viene separata dai camion e dai trattori, di quell'altra poi bisognerebbe cominciare a discutere che fine farà. Comunque io non credo che nella fabbrica dell'auto, dove la maggior parte della produzione è dell'estero e dove in tutti i paesi esteri dove la Fiat ha gli stabilimenti, i governi, a partire da quello americano, quell'accordo con la Chrysler, ha messo ingenti finanziamenti pubblici, dove la famiglia, il sindacato di controllo, il gruppo Exor, non ha messo sostanzialmente un centesimo, perché gli unici investimenti che si fanno in Italia sono finanziati dalle banche e dai risparmi attuati con la cassa integrazione, quindi pagati da noi. Ecco, io non credo che il futuro della Fiat sia un futuro tra virgolette italiano, cioè io penso che la Fiat Auto continuerà La Fiat Auto sarà sostanzialmente una fabbrica in mano a, o al governo americano o comunque a uno dei vari governi che hanno in qualche modo messo miliardi e miliardi di dollari a sostegno di questo progetto industriale. Ecco, mi piacerebbe che si discutesse di questo, okay, dei modelli, dei prodotti, della proprietà della Fiat, invece che sempre discutere del fatto che gli operai di Pomigliano lavorano troppo poco, tra l'altro non avendo alcun lavoro da fare, e quando e se avranno lavoro da fare, dovendo produrre un modello, la Panda, che quando cominceranno a produrlo sarà chiaramente obsoleto rispetto al mercato europeo. Allora, stop qua e andiamo di pubblicità. Ci sarebbe un'infinità di cose da dire, nel senso che è vero che la Fiat perde il 31% di mercato, di qua al mercato a luglio, è vero, certo, è vero che lo perde rispetto a gruppi che in realtà hanno salari medi molto più elevati, è verissimo, Volkswagen, eccetera. Poi è vero che quei gruppi come la Volkswagen anni e anni fa si sono messi in condizione di avere una produttività diversa, chiedendo anche, ottenendo dal sindacato di Metallo, io lo dico spesso, una modulazione dei turni completamente diversa, un contratto di solidarietà per difendere l'occupazione che altrimenti sarebbe stata ridotta, per impedire la delocalizzazione anche il lavoro aggiuntivo a uguale salario, cosa che nessuno propone in Italia. Beh sì, è vero, e allora però si tratterebbe di discutere, sì però i tedeschi pagano di più eccetera, ma si arriva a essere pagati di più come i tedeschi perché si è competitivi come i tedeschi e si ha un'energia che costa come in Germania, trasporti, infrastrutture, logistica eccetera, tasse più basse, 6 punti di pressione fiscale meno quasi sulle imprese, perché c'è tutto questo, e poi si paga anche la tedesca o si comincia dalle paghe? Questo è difficile dirlo, nato prima l'uovo o la gallina, e si vede il mondo da due punti di vista. Eccoci tornati in studio, avete sentito le parole nette, chiare di Giorgio Cremaschi, che dicono no, caro Giannino, tu non puoi dire che a Sergio Marchionne la scissione della Fiat, la sfida globale, le nuove regole di fabbrica italiana, 100.000 Pomigliano, insomma, in tutta Italia, siano la vera risposta adeguata all'occupazione clientelare, l'aumento e l'espansione del lavoro pubblico squalificato e che lede i diritti in realtà della dignità del lavoro, anche se risolve i problemi dei precari, però altrettanto se non più di quello invece che propone con regole unilaterali da vecchio padrone delle ferriere, da vecchio barone agrario, anzi ha detto Cofferati. Sentiamo invece la voce di un'altra posizione critica, ma per diversa formazione culturale, Domenico De Masi, se invece queste due fotografie sono in qualche maniera accettabili come contrapposte per far capire all'Italia e alle classi dirigenti o di qua o di là. Sentiamo cosa ne pensa lui, perché io poi giudico, nomino giudice della questione, non io, ma poi alla fine Guido Gentili, che per il suo equilibrio è, per me è il punto di riferimento a cui guardare. Ma intanto sentiamo la posizione della ringa di Domenico De Masi. Allora, tra Marchionne e questo concorso siciliano, mi scusino i siciliani, ma come esempio dell'eccesso di intermediazione pubblica inefficiente che espande il peso sulla spalla del contribuente, si può accettare che queste siano le due fotografie con una classe dirigente che deve decidere dove vogliamo andare o di qua o di là? Oppure, come Cremaschi, per ragioni diverse, in realtà la via è terza e diversa, non è un modello troppo marcato come quello palermitano siciliano del pubblico meridionale inefficiente, ma tantomeno quello di cambiare tutto nelle fabbriche, nella manifattura italiana, seguendo la competizione del mondo, orari mondiali, paghe in proporzione a ciò che si produce eccetera? Come la pensa De Masi? Dunque, io mentre vi ascoltavo immaginavo come sarebbe un concorso per assumere gli operai Fiat di Pomigliano d'Arco e immaginavo quali domande ci sarebbero. Secondo me ci sarebbero, per essere coerenti con il lavoro chiamato a svolgere, ci sarebbero domande di questo genere: girare 3 volte una chiave inglese, spostare un bullone di 30 centimetri, premere un pulsante A o abbassare una leva B, aprire e chiudere un computer, roba di questo genere, molto molto più semplice che non fare un fax o fare una fotocopia su doppia facciata. Praticamente questo significa che il lavoro chiamato a fare a Pomigliano d'Arco dalla stragrande maggioranza dei dipendenti non è assolutamente antitetico a quello dei 4.912 precari della Sicilia, che tra l'altro bisogna dire fanno i precari da 10 anni, per cui questo concorso diciamo è puramente pleonastico, nel senso che già si sa ognuno di loro se è bravo o meno. dovendo fare un continuum in cui in un polo c'è la Sicilia, io all'altro polo avrei messo la Ferrari, la Frau, Illy, Alessi, la Bonfiglioli, aziende vinicole come quelle della Campania, cioè società veramente eccellenti. E se avessi fatto un continuum di questo genere, a un polo la Fiat e all'altro la Ferrari, la Fiat sarebbe, cioè a un polo la Sicilia e all'altro la Ferrari, la Fiat sarebbe risultata molto più vicina alla Sicilia che non alla Ferrari o alla Frau. Questo per quale motivo? Non per motivi di incapacità gestionale o per altro, ma perché ormai il mondo si va tripartendo in paesi i quali preferiscono produrre idee soprattutto nel campo dell'informazione, dei simboli, dei valori, dell'estetica, cioè la produzione tipica post-industriale su cui è centrata la società, paesi emergenti che ormai preferiscono produrre beni materiali, panda, frigoriferi e così di seguito, e paesi del terzo mondo. La differenza tra il primo tipo di paesi, dagli Stati Uniti al Giappone, alla Germania, è che lì il reddito pro capite supera i 20.000 euro e che il costo del lavoro è intorno ai 20 dollari all'ora. Nell'altro caso, nel paese emergente, per esempio in Brasile, il reddito pro capite è intorno agli 8.000 euro e il costo del lavoro è intorno ai 7 dollari all'ora. Allora è chiaro che occorre a un operaio di Milano produrre 3 volte più di un operaio di Belo Horizonte per ottenere la possibilità di parificare la produzione, se la produzione è di tipo manuale. Se invece noi compariamo il costo di 2 ingegneri, ci accorgiamo che a Pechino costa 1,5 rispetto a Milano. Questo che significa? Che se noi in Italia produciamo prodotti di alta sofisticazione, con grande contenuto di ricerca scientifica, vinciamo sui paesi emergenti. Se produciamo la panda, perdiamo, a meno che non si creino condizioni di lavoro talmente efferate che poi il lavoratore italiano, tanto più che è abituato al tenore di vita italiano, praticamente non ce la fa. Questo significa quindi che noi dobbiamo rivedere tutto il nostro modello se vogliamo competere con il terzo mondo e con i paesi emergenti. Non è possibile assolutamente competere con i ritmi di lavoro da elevare e col salario da abbassare, perché questo porterebbe a un arretramento di civiltà. La Fiat, ad esempio, a mio avviso, sconta decenni di mancata ricerca scientifica e decenni di mancata ricerca sociale, perché la Volkswagen non ha fatto soltanto ricerca scientifica, ha fatto anche sperimentazioni, sperimentò le 35 ore, ha sperimentato vari tipi di turni e lo ha fatto con una ragionevolezza tale che i sindacati hanno accettato tutto questo. Bene. Io credo che ora noi ci troviamo di fronte a una situazione di questo genere. Detroit si è aggrappata totalmente all'industria automobilistica, aveva 3 colossi, Chrysler, General Motors e Ford, ed è crollata in 20 anni. La prima volta che io ci sono andato era una città fiorente, ricchissima, aveva alberghi meravigliosi, ostentavano il cinema più grande d'America, un cinema Liberty bellissimo. L'ultima volta che ci sono andato, non più 2 milioni di abitanti, ma 800.000 abitanti, il centro storico tutto sfondato, quel cinema trasformato in garage. Questo per essersi aggrappato, diciamo, al prodotto industriale tradizionale. E non è un caso che l'America vende la Chrysler all'Italia, in quanto la considera non più un paese del primo mondo, ma un paese emergente, che deve ormai rapportarsi all'industria automobilistica che per sua definizione è obsoleta. Quindi io credo che la Fiat come singola azienda, l'Italia come azienda complessiva, come impresa complessiva, deve scegliere tra primo mondo o terzo mondo, perché ha i salari e il tenore di vita da primo mondo, e se vuole reggere questi salari e questo tenore di vita può solo aggrapparsi a una innovazione tecnologica altissima, alla creatività che comporta mezzi e prodotti e metodi produttivi completamente nuovi. Se la Fiat avesse prodotto, che so, una macchina avveniristica all'idrogeno, probabilmente Pomigliano d'Arco sarebbe competitiva rispetto alla Polonia o rispetto a Belo Horizonte. Tenete conto poi anche di un altro fatto, che questi paesi emergenti si stanno attrezzando anche per arrivare al primo mondo. Ah, non c'è dubbio. Non c'è dubbio. La Cina l'anno scorso ha laureato 4 milioni di giovani, e io che ci vado di tanto in tanto assicuro che si tratta di una preparazione scolastica eccellente. Allora, devo 480.000 ingegneri l'anno scorso. Devo fermare De Masi, che è stato chiaro, e mi pare che abbia aggiunto un ulteriore elemento, questo della alto valore aggiunto come prospettiva per i paesi avanzati di reggere, perché non si possono inseguire i costi bassi del lavoro per reggere, è da sempre ciò che poi fa andare avanti e fa restare leader i paesi leader della globalizzazione, se sono capaci di rimanere a quell'altezza, altrimenti la loro crisi di settore, come quella della Fiat auto americana, dell'auto americana, dimostrano di come si possa poi rotolare giù e risalire su. Però bisogna rimanere nell'eccellenza, tanto è vero che in questi anni l'utile è venuto esattamente dagli stabilimenti in cui si lavorava di più, oltre a costare di meno della stessa Fiat Auto, cioè Brasile e Polonia. E il problema in Italia oggi è i 20 miliardi che Fiat dice di voler investire qua, dice ieri Marchionne, per investirli, perché devo fare valore aggiunto, devo provare a fare valore aggiunto, visto che il ritardo negli investimenti dell'intensità di capitale per unità di prodotto nelle automobili Fiat c'è, ha perfettamente ragione, ma su questo allora dice la nuova Fiat, per mettere i 20 miliardi voi mi dovete dare regole nuove. Però, dice Cremaschi, troppo comodo. Prima ci fai capire se davvero i 20 miliardi servono a produrre tecnologie avanzate, eccetera, eccetera. Altrimenti vuoi solo diminuire i diritti e non però le retribuzioni, visto che le vuole aumentare. Però io questo ancora non l'ho capito. Eccoci tornati in studio, due rapidissime telefonate, gli ascoltatori come la pensano su questa fotografia ideale contrapposta, Marchionne e la sua nuova Fiat da una parte e i 5.000 nuovi assunti per fare una fotocopia fronte e verso in Sicilia. Michela da Milano, come la pensa? Buongiorno, io la penso che posto che non... è vero che magari girando tre viti un operaio però alla fine esce un'auto, a fare la fotocopia fronte e retro, che è ciò che qualsiasi persona che normalmente lavora sa fare, e che anche il mio dirigente, che ha la sua segretaria personale e 500 persone sotto, ogni tanto lo vedo che se le fa da solo. Mi chiedo A, se è legittimo un concorso del genere, ma B, soprattutto, qual è il contributo allo sviluppo che si vuole dare in questo modo, perché io non lo riesco a cogliere, se non quello, va bene, di sistemare una situazione di precari, che è umanamente comprensibile, ma realmente 5.000 persone che fanno quello che qualsiasi persona che lavora sa fare a complemento di mille altre cose che deve fare, qual è? Questa è la nostra domanda, Michela. Domenico, anche Domenico ci chiama da Milano, come la pensa? Ma io mi preoccupo soprattutto del tipo di motivazione che questo tipo di concorsi dà ai giovani. Io l'ho ascoltato anche qualche giorno fa a Giannino, quando faceva il rapporto tra la motivazione a lavorare e il carico fiscale, no? Cioè, i giovani siciliani che vedono questo tipo di concorsi, eccetera, qual è la loro motivazione? Anche loro sperare fra qualche anno in una sistemazione di questo tipo, quindi... anche nel motivare o nel definire un modello per i giovani, questo tipo di manifestazioni, tipo il concorso in Sicilia, sono veramente degeneranti. Grazie a Domenico. Qui è importante ricordare quello che Domenico De Masi ci ha detto: la maniera di produrre e di organizzare consenso nei luoghi di lavoro, fuori dai luoghi di lavoro, è un veicolo potentissimo di trasformazione dei modelli, di formazione del capitale umano, di coesione sociale, di convinzione e di sostegno, che può aiutare o impedire poi alle imprese di nascere, fare meglio i loro prodotti, i loro processi, di distribuirli e di venderli meglio o peggio. La maniera di organizzare cultura e quindi l'impatto che hanno questi fenomeni, ha ragione, io sono molto convinto che Domenico da Milano ci abbia aperto un'altra chiave, serve a capire perché poi noi siamo più indietro degli altri paesi. Noi abbiamo bisogno di modelli che sono di culturali e di comunicazione della filosofia di produrre, perché servono a fare aprire la testa alla gente, servono anche a un certo punto, se iniziano a funzionare, a dire vabbè, allora forse capisco uno Stato che mi chiede tutti questi soldi del diavolo e me li leva dalle tasche, ma se tutto questo non c'è, io devo dirvi che li capisco quelli che tentano di non darglielo, è come se lo capisco. Dal basso del mio 66% quest'anno di prelievo complessivo sulle mie società e partita IVA, e come se li capisco? Non li capisco invece chi li considera dei banditi dell'ordine pubblico e del patto sociale. Ma fine della mia inutile cosa, perché adesso bisogna sentire il giudice monocratico, cioè Guido Gentili. Abbiamo sentito le ragioni di De Masi, abbiamo sentito le ragioni di Cremaschi, due punti di vista diversamente critici, ma critici, dichiaratamente critici. Sentiamo le conclusioni di Guido Gentili. Ma grazie per il ruolo di giudice unico. Io credo che, diciamo, i due esempi che hai portato all'inizio, quello del caso Marchion 1 e 2, il caso dei precari, del concorso per i precari siciliani che vengono stabilizzati, ci obbligano, questo è il dato che li accomuna, secondo, ci obbligano a un esercizio di realismo, cioè di guardare in faccia la realtà per quella che è e non per quella che viene descritta spesso in modo diverso. La realtà è questa. Ieri Marchionne ha detto, dice, gli Stati Uniti è un paese dove si fa, in Italia si chiacchiera. Vogliamo dargli torto? Io non credo che gli si possa dare torto a Marchionne. Io non so se il suo tentativo riuscirà. È un'operazione, diciamo, una svolta epocale, ma come dar torto a una persona, diciamo, o come non dargli credito quando dice che, diciamo, la Fiat ha voltato pagina perché non poteva più andare avanti, per esempio, con il sistema degli incentivi e dei sussidi, potremmo aggiungere, che hanno distorto il mercato, e ovviamente è stata una fase di lunghi anni questa che, diciamo, il gruppo ha attraversato. Questa epoca è finita. È finita un'epoca, bisogna guardare in faccia quelli che sono i dati. Parlava anche De Masi dei paesi emergenti. Io vorrei ricordare che per la fine del 2011 è previsto uno storico sorpasso, un sorpasso epocale, cioè i paesi emergenti, parlo di Brasile, Russia, India, Cina, produrranno più ricchezza in assoluto dei paesi, diciamo, industrializzati, avanzati. 15 anni fa il mondo occidentale industrializzato, e non solo quello occidentale, produceva il 65% della ricchezza prodotta nel mondo, e arriverà sotto il tetto del 50%. Quindi questa è la realtà. Dobbiamo, diciamo, fare i conti con questa situazione e non con quella che, diciamo, è scritta forse in qualche manuale di economia o nei desideri, diciamo, di qualcun altro. Per quanto riguarda la Sicilia, cioè, qui non si offre, non si crea un posto di lavoro, qui viene da decenni, e quindi non è colpa di questa giunta, di questo governo, di questo colore o di un altro colore. Vengono offerte delle liste di attesa, diciamo così, perenni, in cambio probabilmente di qualche voto clientelare, e vengono immessi nella pubblica amministrazione, nella regione e negli altri enti locali, delle professionalità diciamo così, per così dire, di livello infimo, e lo testimoniano poi il livello dei concorsi che adesso si stanno svolgendo che si andranno a svolgere da qualche giorno in Sicilia. Non c'è nessun contributo allo sviluppo, come ricordava l'ascoltatrice prima. Ripeto, si vendono non un posto di lavoro, non si offre un posto di lavoro, ma, diciamo, sì, una lista d'attesa eterna. Vale per la Sicilia, ma vale anche per la scuola, perché il discorso dei precari, che tante volte avete affrontato anche nelle vostre trasmissioni, dei oltre 200.000 precari della scuola, diciamo, è un discorso che si avvicina a questo. Quindi è un paese, diciamo, che deve fare i conti con la realtà, comprese le difficoltà. Io sono d'accordo con Cremaschi quando dice che esiste un problema di prodotti. Oggi, se io oggi, cittadino, voglio comprare, acquistare un'automobile nuova e compro quattro ruote per vedere che cosa offre il mercato, vado sotto la lista del gruppo Fiat e vedo, non so, 40 modelli, vado sotto la lista Volkswagen e vedo 80 modelli. Quindi è chiaro che l'offerta è nettamente migliore, quindi esiste un problema, diciamo, di prodotti. Però io non credo che si possa risolvere, è un po' il discorso, come dicevi tu, dell'uovo e della gallina. Viene prima un sistema competitivo, diciamo, la Germania si è messa nelle condizioni di girare in modo competitivo, tutto il sistema tedesco funziona in modo competitivo, non è solo una parte, non è solo l'industria automobilistica che funziona bene, funzionano bene i trasporti, ha una rete infrastrutturale eccezionale, ha una capacità di competere sui mercati del mondo che non ha eguali nel mondo, quindi è chiaro che questo, tutto il sistema tedesco funziona in modo competitivo, è rivolto all'export, anche noi puntiamo molto sull'export, ma abbiamo un sistema che non è competitivo. Quindi rendiamoci conto di questa realtà e corriamo rapidamente ai ripari per creare sviluppo, per creare crescita, perché altrimenti noi non ne usciamo né con le polemiche contro Marchionne, all'insegna, diciamo, della caduta dei diritti, né con le scorciatoie che sono quelle che vengono, diciamo, si registrano a Palermo con l'inserimento dei precari, che tra l'altro tagliano fuori molti disoccupati che magari avrebbero anche, come dire, diritto a poter concorrere per questi posti. Mi riconosco nella sentenza di Guido Gentili, più equilibrata di quanto l'avrei data io, che riconosce le ragioni degli intervenuti e dei punti di vista critici, riconosce che esiste, è vero, c'è un punto di vista, che c'è un problema serio che riguarda i prodotti, la tecnologia investita mancata nei prodotti Fiat. Qui sono arrivati un mucchio di sms ai nostri cari amici tassisti, che io saluto perché vi hanno preso molto a schiaffi in questo paese, che dicono: uè ragazzi, ma qui innanzitutto il problema è, se chiedete a noi qui, Toyota, vero, verissimo. La questione è, però, possiamo provare a recuperare e a prendere sul serio un'azienda che dice: paghiamo l'errore degli incentivi? Ma dove lo abbiamo mai sentito un capo della Fiat che dice che gli incentivi pubblici erano un errore? Ma io forse sono troppo celebrativo, per questo ci voleva una conclusione come quella di Guido Gentili, che ringrazio, che riconosce che i problemi posti da De Masi sulla tecnologia, il modo di organizzare, fare consenso e produrre, è un problema vero irrisolto, e la Fiat su questo deve dare risposte. E poi però attenzione anche ai problemi posti da Cremaschi su gli esclusi, quelli che non riescono a trovare una risposta né in un modo né nell'altro. Noi di questi continueremo ad ascoltarli, perché non è vero che io non sono capace di fare confronto, lo dico agli amici della FIOM, levatemi la scomunica, Landini, Susanna Camusso, per favore, perché come sentite qui c'è posto per tutti. E però c'è posto anche per una conclusione netta, che è la mia personalissima: o sto paese la imbocca la strada di regole nuove e cose diverse, oppure io vi saluto, perché penso che altrimenti, con la politica che ci aspetta, che leggete sui giornali, quell'Italia lì non si avvicina, capite? Questa è la mia personalissima impressione. Allora, grazie a Guido Gentili, grazie a Domenico De Masi, grazie a Giorgio Cremaschi, grazie a Pietro Lacorte in regia, Franco Piantanida, grazie a cui questa diretta oggi c'è, e in redazione Alessandro Marco Tulli, che ha, come al solito, tirato fuori l'idea. Linea Giornale Radio, appuntamento a lunedì.